Adri, mi senti da lì? Ti devo uccidere. Certo non era così che sapevo di te. Scusa se adesso non piango, ma canto così. Adri, la tua volontà c'è e non se ne andrà. Anche se adesso non posso parlarti di me, della mia musica e della città dove vivo da un po', ma ci troveremo dove il cielo è più sereno. E ascolteremo tutta la musica del mondo. Adri, la vita è un passaggio e spesso è di fretta. Certo, gli errori si fanno e a volte si pagano. Tu hai pagato e adesso sei forse più libero. E voli nell'anima di chi ti ama oggi per come eri ieri. E voli nell'anima di chi ha diviso i tuoi pensieri. Se penso alla roba e al male che ha fatto, e a tutta la gente bastarda che non ha mai pagato, tu sei un esempio di come si viene fuori da lì. Sì. Ma ci troveremo dove il cielo è più sereno. E ascolteremo tutta la musica del mondo. passi da qui ti devo uccidere.